Malgrado il sole è praticamente un mare magnifico con 5 gradazioni di colore davanti a noi, tutti quanti seguono ancora i dibattiti. Adesso si stanno svolgendo due incontri, quelli su quali meccanismi per la democrazia globale e l'altro ancora più interessante è quello a chi serve la liberalizzazione del commercio, il punto sulla prossima sessione del WTO. Poco fa ha finito di parlare Susan George che ha acceso gli animi dicendo stiamo toccando veramente dei punti cruciali, questo lo possiamo capire dal fatto che il prossimo incontro del WTO sarà in mezzo al deserto nel Qatar a novembre e proprio perché hanno paura di noi e quindi cercano di scappare il più lontano possibile. È stupido e questo interesse per i poveri dalla parte di Bush, sono molto scommossa di questa dolce this sudden care, questo improvviso interesse. Sì, no, Bush governa per chi? Bush governa per i transnazionali, notamente di petrolio e di gas. La gente qui siamo da anni nelle lotte per i poveri. Ecco, ma c'è un tentativo di impadronirsi dei temi e delle questioni del movimento perché il movimento in qualche modo ora fa paura? Sì, ha fatto paura perché è in crescimento costante e questo movimento non ha finito di crescere, allora è normale che fa paura. Credo che è un buon segno che loro devono proteggersi da noi perché mostra alla faccia del mondo che ci sono la minorità e che difende gli interessi di una piccola minorità. Il neoliberismo è una cultura, è un'economia, è un modo di pensare e di progettare il mondo che esclude. Non è un modo inclusivo che valorizza le differenze, ma esclude. E esclude in particolare le donne, perché sono un genere che ha portato da 50 anni a questa parte il conflitto, la questione del conflitto all'interno della monolite del pensiero unico. Quindi non diciamo, non ci spingiamo dicendo che le donne sono di per sé rivoluzionarie. Diciamo che chi pensa che il genere sia una lente attraverso cui guardare il mondo, bene, porta questo tipo di dote conflittuale dovunque. Ecco, quali sono degli esempi di esclusione sociale e politica che potresti citare e che riguardano specificamente le donne? L'Afghanistan è uno di quelli. L'Afghanistan è il luogo dove si gioca una partita che al di là del petrolio è simbolica e molto concreta nella segregazione delle donne. Ma nei nostri paesi, nel nostro occidente, responsabile dell'impoverimento del pianeta, si gioca la partita più interessante, perché la globalizzazione che viene pensata e viene propagandata come la possibilità per tutti e per tutte di ricchezza è in realtà il boomerang che ci sta impoverendo. Nel mondo l'80% delle persone povere, analfabeti, private di diritti civili sono donne, donne e bambini. Un Cristo campesino cileno crocefisso ai suoi strumenti di lavoro esposto nella chiesa di una parrocchia della Genova ricca. Nei 3 giorni clou di appuntamenti anti-G8, uno dei centri di aggregazione sarà Bocca d'Asse, il borgo sul mare diventato quartier generale delle oltre 100 associazioni religiose che hanno aderito alla campagna contro il debito. Il Cristo campesino sarà il simbolo dell'iniziativa, il grido dei poveri lanciato dalla chiesa dei ricchi. Ci saranno momenti di preghiera, non solo cattolica ma islamica, evangelica, induista. Ci saranno veglie, danze e meditazioni. Ci sarà ad accomunare tutti il digiuno. Ci saranno i ragazzi genovesi di Tesè, la Caritas anglicana, le famiglie francescane, la testimonianza dal Kenya di padre Zanotelli. Suoneranno le campane delle chiese di Genova, i tamburi del Burundi, le conchiglie degli aborigeni australiani, tutto per chiedere la cancellazione del debito. Sabato allora saranno in corteo insieme al Genoa Social Forum, cui non hanno aderito ma di cui condividono in larga parte gli obiettivi. Ci troviamo proprio nel cuore della città di Genova, siamo sul ponte monumentale, un ponte che è davvero monumentale per dimensioni e che sovrasta via 20 Settembre, o via 20 semplicemente come dicono qui a Genova. È uno dei due viali principali che conducono direttamente alla piazza dove si trova il Palazzo Ducale, che verrà chiuso da domani mattina nella zona rossa, quindi simbolicamente questa iniziativa viene fatta qua. Chi è che ha organizzato l'iniziativa? Attac Italia e Attac Francia. per il boicottaggio dei fondi della Banca Mondiale, cioè quei titoli, quelle obbligazioni che servono a finanziare la Banca Mondiale. L'idea è quella di buttare uno striscione appeso al ponte monumentale con questa scritta Stop World Bank. C'erano una settantina, un 70-80 persone che dovevano venire a supportare l'iniziativa dal basso, quindi da sotto il ponte. Venivano più o meno alla spicciolata, ma sono stati puntualmente fermati. Adesso si aspetta che anche queste persone vengano qua sotto, anche un po' per attirare l'attenzione sull'iniziativa. Guardando giù dal ponte si vede molta gente che passeggia, turisti genovesi. Tra qualche minuto dovrebbe cominciare, si sta ancora discutendo, e questo è l'aspetto anche un po' paradossale, perché da una parte del ponte lo striscione si vedrebbe con lo sfondo del Palazzo Ducale, quindi ci sarebbe il significato politico, però sarebbe in controluce e per i giornalisti televisivi questo non va bene. Allora si sta contrattando se farlo calare invece dall'altra parte, che non sarebbe in controluce, sarebbe più facile da riprendere per i giornalisti. Quindi si cerca anche di capire se privilegiare l'aspetto politico o quello mediatico, ma mi sembra un dibattito che in questi giorni forse torneremo a sentire anche in diverse occasioni.